E buonasera a tutti, siamo qui su Radio Transizione di Fase. Questa sera Pink Moon avrà degli ospiti, sono gli In a Sleeping Mood. Impareremo a conoscerli pian piano, anche perché non sono arrivati tutti ancora. Abbiamo con noi nel frattempo Donato. È una guest star, il manager. Ah, ovviamente Bobo alla postazione MSN farà la brava segretaria. Si è messo una parrucca bionda per l'occasione. Peccato, non la potrete vedere, però fa la sua porca figura. Partiamo con la sigla e ci ritroviamo fra un po'. Eccoci ritornati sulle note di Beck, una musica di sottofondo non proprio appropriata, però ci sta, consona. Allora io al mio fianco Donato, uno dei due compositori degli In a Sleeping Mood. Compositori, parolone. Parolone. Niente, sono un progetto nato nel lontano 2007, novembre 2007 più o meno. E niente, un minimo come vi siete conosciuti. Niente, abbiamo fatto. Niente, siamo conosciuti all'università insieme a Bob qui presente. E da lì Mauro suonava in un gruppo e aveva l'esigenza di un chitarrista. Ci siamo conosciuti così, mi ha fatto suonare con loro e poi è nato questo affiatamento e abbiamo iniziato a scrivere insieme. I pezzi nascevano uno dietro l'altro e quindi abbiamo continuato così. Ok, avete fatto un demo. Abbiamo fatto un primo EP, sì, è uscito l'anno scorso, di brani scaricabile dal MySpace. Sempre sì, gratuitamente. Sotto licenza Creative Commons. Certo, certo. E niente, sono pezzi tutti abbastanza diversi l'uno dall'altro, perché abbiamo proprio due modalità di pensiero anche abbastanza diverse. Due anime, diciamo. Sì, due anime che si accostano e creano queste sonorità un po' così. Sperimentali anche, sì. Soprattutto nell'ultimo EP che è uscito giovedì e da oggi viene spinto, diciamo, attraverso la Anomalo Records, che è una etichetta, diciamo, la net label di Ancona, che rispetta, diciamo, la filosofia Creative Commons, quindi tutto gratuito e per tutti, diciamo. Cosa fondamentale. Fondamentalissima, sì. Rispettiamo tantissimo questa idea. Io ho ascoltato il demo prima e devo dire che ascoltando l'EP nuovo sono rimasto piacevolmente colpito. Sì, è diverso, è più sperimentale, ci siamo dati di più, diciamo, sulle nostre sonorità preferite, dai. E io direi di partire subito con una chicca dall'ultimo EP. Se vuoi dire tu il titolo. S contro il primo. La seconda traccia. Eccoci ritornati, questa era un estratto dall'EP Nebula degli In a Sleeping Mood e stavamo discutendo sulla gestazione più o meno di questo pezzo e mi diceva Donato che c'erano un po' di strumenti in tessitura, diciamo. Sì, vabbè, diciamo che questo, se non ricordo male, è stato il primo brano nato da questa sessione di registrazione, iniziata a novembre dell'anno scorso e finita credo a dicembre, cioè sono nati tutti abbastanza velocemente, come gli altri a dire la verità. Comunque niente, in realtà è un concept album, tra virgolette, quindi avremmo voluto metterlo dall'inizio alla fine, però perché è un po', diciamo, difficile al primo ascolto, però prende abbastanza. E niente, in questo brano abbiamo usato pianoforte e i droni di sottofondo erano creati con l'ibo suonato sulla chitarra acustica e sempre sulla serie degli armonici di là, perché tutto l'album praticamente è concepito su questa cosa, quindi seguono ogni pezzo ha come base la serie degli armonici di là e ogni pezzo ha un armonico particolare che crea quindi queste nubi e quindi queste... Spieghiamo che cos'è un armonico. Possiamo fare intervenire il musicologo. Allora c'è il musicologo che può spiegare, Luigi, il nostro manager. Roberto. No, vabbè, praticamente ogni suono è formato da diversi altri suoni, diciamo, semplicemente al suo interno, e sono quelli che creano, diciamo, il timbro e il colore di ogni strumento. Cioè la chitarra la si riconosce perché ha quei determinati armonici superiori che vengono amplificati, semplicemente. E niente, poi abbiamo usato per il beat rumori reali presi da sia dai rumori della strada o cose del genere. Abbiamo musica concreta. Musica concreta, sì. Infatti le influenze sono quelle, diciamo, da Russolo in poi. Che ricordiamo che voi provenite da una facoltà che... Sì, grazie alla facoltà di musicologia. Infatti, allievi del professor Nottoli. Nottoli, grande Nottoli. E niente, questa è stata la gestazione del brano, più o meno. E in più, vabbè, batteria, synth per la parte più accesa, tra virgolette. Qualcuno prima diceva... il rimando della S del titolo è, diciamolo, a Sakamoto, perché... Inchiniamoci. Insieme a Albanoto faceva una roba del genere e ci siamo ispirati a il quelle cose di lì. Albanoto. Sì. Qualcuno prima diceva su MSN Ciccio... Porcupine Tree anche abbiamo, potremmo stare qui ore e ore a parlare una nottata di tutte le influenze. La cosa fondamentale e a mio avviso meritevole di questo EP è che c'è veramente tanto, quindi è avere dei riferimenti, avere molti riferimenti è una cosa positivissima, quando proprio dici come ti etichetto. E non ti esce la parola, secondo me è una cosa positivissima. Sì, no, è come se questo EP esprimesse tutte le influenze in un concentrato. Magari influenze pesante. Inconsce che uno nemmeno. Sì, magari uno ti tira fuori il nome e dice cazzo. Hai ragione, è vero, però non ci avevo pensato. Sì. Niente, sei musicologi vogliono aggiungere qualcosa. C'è tempo. Dai, io passerei il primo pezzo dell'EP. Sì, che è quello più elettronico dell'album, cioè più concreto, perché è stato costruito sempre sulle fondamenta, sulle armonici di là, e sono tutti suoni provenienti dall'acqua. Okay. È un pezzo fatto da acqua praticamente. Andiamo ad ascoltarci Ex Clutch. Un pezzo che fa bagnare. Questa era Ex Clutch direttamente dall'EP Nebula, che potrete trovare su www.anomolo.com, che è anche la net label che ci sta spingendo con grande armonia. Parliamo di armonie, mi sembra giusto e doveroso. Ma se vuoi parlare un po' dell'etichetta, se è un'etichetta che c'è da quanto più o meno. Non so da quanto, abbastanza, però è un'etichetta che comunque ha fatto sue i principi della Creative Commons praticamente, quindi aiutare più non posso i gruppi emergenti come noi, che cercano di fare del loro meglio per emergere, e prendono soltanto musica abbastanza particolare sull'elettronica e sì, infatti ho visto che ci sono i Cartavetro, io li ho visti giù a Reggio a Lamp Post, e ho visto un po' di date in giro per il mondo, dovevano suonare a Londra, insomma Creative Commons. Sì, il Commons regna, sì. Ma niente, ci danno una mano rispetto alla pubblicità più che altro, attivando l'ufficio stampa e Niente, giornali, riviste, per farci dare un po' d'attenzione, magari troviamo qualcuno che ci aiuti un po' di più, nel senso trovare serate, roba del genere. Avete qualche live a breve? A breve no, forse a giugno lì da loro ad Ancona, per, sempre per promuovere l'album. Niente, scaricatelo. Più o meno l'attività live degli In A Sleeping Mood. L'attività live è in trio, perché aggiungiamo un bassista per dare sostegno di bassi e di groove maggiore, per dare un po' più di impatto. Sì, i pezzi per adesso sono quelli dell'EP vecchio, con l'aggiunta di S Control primo e Newbrew, un'altra traccia del nuovo, e sono tutte prettamente più elettroniche, perché non abbiamo la batteria, quindi facciamo tutto col computer, sempre attraverso suoni creati da noi su chitarre manipolate sul computer, eccetera eccetera. E niente, sempre due voci, due tastiere, due chitarre, il basso, più ukulele, cose varie, strumentazione varie, giocattoli. E questo EP non è presente la voce? Questo EP no, tranne Ananke, che è tutta fatta con la mia voce praticamente. E sì, alla fine sembra quasi un synth, perché viene modificato in un determinato Infatti modo. Io pensavo fosse un synth. No, è solo voce. Solo voce. Ogni pezzo ha la caratteristica che è formato da suoni reali. Tu sei un synth. Ognuno di noi può essere un synth se lo vuole. Se lo vuole. Sì, niente, questa è la cosa base del live. A sto punto andiamo a sentirci proprio Ananke, io direi. Vabbè. Questa era Ananke, sempre dall'EP Nebula. Ora piano piano magari inseriamo anche pezzi del vecchio EP, sempre sotto suggerimento del creatore. Stiamo ancora attendendo l'altra parte degli In a Sleeping Mood, sperduta per le strade di Roma. Esatto. E niente, sì, abbiamo parlato dell'attività live, che è fondamentale soprattutto per un progetto come il vostro, secondo me, è anche la location. Infatti questo è un problemone. Perché non riusciamo a trovare l'ambiente perfetto, diciamo, per esprimere il sound. È ovvio che magari i pub offrono limitatissimo, però sì, ovviamente con la gente che urla non è. No. Infatti il nostro deve essere proprio un approccio di ascolto totale, perché sennò non bisognerebbe non prima parlare un minimo con la gente che viene al live. Sì, spiegare, allora dovete adesso stare zitti. Esatto. Non dite una parola. Chiedono se conoscete Klopp Dva. Chi? Klopp Dva. È antigruppo e antigruppo. Sempre francese. Klopp DVA e antigruppo. No, io no. L'altra metà. Non si sa, lo sapremo presto. Speriamo. Però magari è Ciccio. Sì, allora vabbè, dai, nella trasmissione delle 11, magari se hai qualche vinile di questi due progetti, li ascoltiamo volentieri. Sì. Niente, io potrei anche fare un salto al vecchio EP. Facciamolo. E lo facciamo con cosa? We Baby Bridge. Ok. Ah, questo è dall'EP chiamato In a Sleeping Mood. In a Sleeping Mood. Sì. Non è in realtà proprio l'EP, perché dura abbastanza e sono è un mini album. Ho 10 tracce. Andiamo a ascoltarci With Bated Breath, la terza traccia. ritorniamo sempre sulle note di Beck, una figura fondamentale per gli anni 90 che, vista la serata, secondo me ci sta. Però stavamo parlando prima di Drake, perché io ho visto fra le loro influenze Drake, che magari è quella più nascosta forse. Sì, è nascosta, ma se si ascoltano bene alcuni, non lo so, alcune linee melodiche, alcuna la malinconia di certi versi, forse emerge un po' di più. Antonio su MSN dice: questo pezzo gli ricorda qualcosa dei 65 Days of Static. Sì, può essere. Cioè, tra le nostre due hanno copiato. Dai, tiriamo fuori tutte le influenze che ci vengono in mente. Sì. Post rock, pop, tutto quello che ci può venire in mente. Ovviamente di questo EP live farete dei pezzi. Questo nuovo? No, di questo vecchio. Questo vecchio facciamo tutto live. Tutto, e facciamo anche altro che non abbiamo inserito perché è nato un po' dopo, eccetera. Comunque sono pezzi che avete scritto, questi del vecchio EP, più o meno quando? Ma da gennaio 2008, diciamo, sono fuoriusciti tutti di colpo, diciamo, anche perché lavoriamo così, ci guardiamo e iniziamo a suonare, praticamente. Nascono tutti direttamente, con una facilità quasi estrema. La durata del pezzo è la durata con cui non lo creiamo, praticamente. Dunque la fase di registrazione è tutta autoprodotta. Sì, tutta home recording, sì. Sull'onda di figure quali Sparklers, Portet, i produttori da cameretta, si chiama. Sì, produttori da cameretta. Quelli che creano principalmente la loro camera. Alcuni rumori di fondo sono le scopettate da sotto. Smettetele, è tardi, quello. Sì. E se di musica concreta vogliamo parlare. Sì. Sono state fondamentali quelle bacchettate. Inconsapevoli protagonisti del pezzo. Sì. Non abbiamo detto che io sono abruzzese. Ah, ecco, perché alcuni ci chiedevano di dove siete. Io di Guardia Grele, che è in provincia di Chieti, e credo si senta dal mio modo di parlare. E invece l'altro è di Caserta. Spero che arrivi, perché ormai è finita la trasmissione. No, scherzo. No, speriamo di averlo qui nei prossimi minuti. Sì, è in arrivo. E niente, andiamo a sentirci un altro pezzo da In a Sleeping Mood. Sì, questo EP però è diverso perché non è tutto strumentale, sono brani un po' più cantati che vanno dallo shoegaze al pop beatlesiano e Pink Floydiano, se possiamo dire così, termini inventati. Vabbè, sentiamo un pezzo cantato a questo punto, ossia Rhodes. Allora andiamo a sentirci Rhodes da In a Sleeping Mood. Just to lay your own guilty. Ritorniamo qui a Pink Moon. Nel frattempo è arrivato un applauso. È arrivato l'altro compositore, è arrivata l'altra metà degli Ina Sleeping Moon Maracas, che ora ci farà un monologo di 4 ore e mezza. Un lungo monologo. Ti avvicina perché non sì, e abbiamo anche il nostro caro bassista Simone Mirabili. E niente, abbiamo messo. Allora, faccio un piccolo riassunto per introdurre il nuovo arrivato. I nuovi arrivati. E abbiamo fatto sentire un po' 3 pezzi dall'EP nuovo. E stiamo facendo ascoltare un po' di pezzi da In a Sleeping Mood, che è l'EP vecchio. E niente, se vuoi dire qualcosa. Signor. Niente, cercavamo qualcuno che spiegasse bene che cosa sono gli armonici. Allora, gli armonici. Seriamente? No, gli armonici sono. Gli armonici sono. Cioè, sono dei chierichi. Che sono le arpe. No, gli armonici che sono? Dite gli armonici, ragazzi. Oh, per dai. Vabbè, mica sono musicologi come te. Chiediamo l'aiuto del musicologo. In questo momento i monaci vegani. Allora, gli armonici sono delle, se non mi sbaglio, frequenze parziali della frequenza fondamentale. E questo l'abbiamo detto. E che devo dire più? Hai vinto! È stato accettato! Era solo per metterlo in difficoltà. Abbiamo già detto. Ok. Allora, ovviamente lui è la parte campana, abbiamo sì, detto. Sì, io sono campana. Abbiamo sentito prima Donato direttamente dalla provincia di Chieti. Pure il bassista è a Bruxelles. Non è della provincia di Chieti, bensì di Teramo. E noi qui in casa abbiamo un altro teramano, magari poi facciamo un caramba, che sorpresa, magari stavano anche alle elementari insieme. Niente, io continuerei con l'EP vecchio, visto che aveva riscosso bei consensi, anche perché tu non lo sai, ma siamo collegati via MSN con la gente che ci manda i feedback. Grande. E niente, facciamo scegliere a te il prossimo pezzo dall'EP. Allora, dell'EP nuovo vecchio abbiamo mandato soltanto Rose with Bated Bread. Allora direi una più tranquilla. Vai. Quale? Però io direi Flutter in Silence. Ok, no. Allora andiamo a sentirci Flutter in Silence dall'EP. Un pezzo strumentale. Se lo vuoi un pezzo introdurre. Strumentale per due chitarre elettriche. Basta. Solo chitarre elettriche. Poi faremo i lanci sanremesi. Fra un po' iniziamo a fare i lanci sanremesi. Pulito è buon ascolto. Thank you. successo. Questo era Flutter in Silence. Mi è appena stato detto che dal vivo verrà egregiamente arrangiato dal bassista. Cosa che ovviamente non è vero. Non è vero, la parte di basso è inesistente, l'hai aggiunta tu. Sì, diciamo che il live è tutto diverso, diciamo. Possiamo dirlo, diciamo. Abbiamo parlato prima. Abbiamo parlato prima. Non possiamo dirlo. Della dimensione live della serie, che una proposta musicale così, soprattutto con il nuovo EP, non la puoi proporre dappertutto. Infatti, questo circolo degli artisti ci chiamasse. Ma secondo me è una proposta che il circolo degli artisti potrebbe accogliere, se vuole, se diciamolo. No, fare gesti brutti. Niente, no, il live è da sempre stato una nota dolente, perché è qualcosa di abbastanza diverso dalla solita roba che nei pub va fortissimo. Che va forte, cioè non è né rock, né indie rock, né pop rock, né after hours. Prima abbiamo tirato fuori Nick Drake, è uscito così. Nick Drake è l'amore della mia vita. Anche sono brocio per Nick Drake. Sottoscrivo. Se solo avessi amato me non sarebbe suicidato. Io quando ho letto la biografia di Nick Drake sono rimasto sconvolto per mesi e mesi. Sono dovuto riprendere solo... Vorrei anche parlare di chi fa le cover di Nick Drake. Lasciamo stare. Ma parliamone. Che cazzo? Roberto Angelini. Ok, i tributi. Il gatto matto che fa la cover di Nick Drake, ragazzi. Cioè, si sta arrabbiando, è diventato questo, rosso. A questo punto io proporrei un Jean-Marie Ferry per fare la cover. Poi ti farò vedere. Ricordiamo che molta gente ha scoperto Nick Drake con lo spot della Volkswagen. Lasciamo stare. Vabbè, in quel caso non però aiuto, ringraziamo la Volkswagen perché ha creato i furgoncini anni 70. Esatto. E poi in concomitanza con questa riscoperta pubblicitaria c'è stato il cofanetto di 3 CD in uno. Sì, alla sì. Ricordi. Vabbè, lasciamo stare. Stanno uscendo ora pezzi inediti cantati probabilmente dalla sorella, però dalla madre, al contrario. Ma questa è un'altra storia. Io non vorrei ancora mandare gli ultimi due pezzi, anche perché lascerei il pezzo forte, diciamo, delle file per ultimo. Possiamo però scegliere un altro pezzo dall'EP vecchio. Io direi Maddi, un po' di post rock rivisitato. Dai, beccatevi questi 8 minuti. Di goduria. Di goduria. A dopo. Thank you. Radio Transizione di Fase, la radio senza amici di Maria De Filippi. We are the music makers. E ci teniamo a ribadirlo che è una radio senza amici di Maria De Filippi. Chiedo dalla regia di alzare un poco il sottofondo. E niente, su questo pezzo che era sempre dell'EP vecchio, avevamo pensato di mettere un pezzo dall'EP nuovo per staccare un po'. Avevamo pensato a New Brewery, sulla quale Mauro ci ho donato. Donato è più. Vabbè, questo è un brano, diciamo, un po' più jazzato, in cui le. Jazzato sembra. Jazzato, capito? Gli omaggi qui sono tanti, un orecchio fine li riconoscerà. Omaggi a Iosa. Sì, sì, possiamo dirlo, possiamo dirlo. Ma Iosa non è una vabbè, cantante. Dal titolo New Brewery, invio al bruidismo e quindi all'arte dei rumori di Luigi Russolo. E all'interno invece Beethoven e Satie la fanno da padrone, diciamo. E ascoltiamola, che è meglio. Ah no, la cosa interessante di questo brano, spieghiamo i segreti. No, è il bruidismo. No, la parte di sottofondo l'abbiamo fatta buttando una chitarra a terra e bruciandola, quasi. No, praticamente invocando bruciare le chitarre, bruciamo le chitarre come se fosse una un grido di aiuto, dei numeri, quale spirito evocare? È uno spirito, di Iosa. Iosa, cantante Iosa. È no, Iosa. Noi fate molti di me. Noi facciamo riferimento alla cantante Iosa. No, questo pezzo inizia come un pezzo dalle atmosfere jazzate. E mi hanno detto che il finale rimanda abbastanza Us and Them dei Pink Floyd. Noi non ce ne siamo accorti, ma è vero. C'è un particolare accordo. Vai. Ah, dalla postazione MSN. Dallo scorso pezzo, che è veramente bello. Grazie. Chiedo se sono synth o violinisti. Sono synth o violinisti. Allora siamo io e il Donato. Io suono il fagotto e il controfagotto al contrario. Io il corno inglese, però bitorzoluto, un po' particolare. E pure il violoncciotto. Il corno inglese. No, sono tutti quanti. Sono tutti quanti synth. No, è synth. Sono violini, ma sintetizzati. Come gli anni 80 ci hanno insegnato. Però in maniera egregia, perché non sembrano. Perché non sembrano sintetizzati, una sintesi PCM e non FM. Sì, sì. Partito totalmente questo ragazzo. Io sono i bombi. E poi c'è una guest star, una guest star. Stai studiando inglese, Beppe. Ci sta Simone, che prima che suonava il basso, e prima che suonava il basso, suonava i bonghi al contrario. La parte senza pelle. E fa una sola al minuto 12. Ascoltiamo. Allora facciamo un lancio Sanremese dopo questa introduzione. Vai. Di Polito e Panaccio. Questa è Nuibri Fornaciari. Adiosa. Thank you. E noi, dopo aver citato Beethoven, anzi, Bizet. I ragazzi si erano dimenticati la Carmen di Bizet, ritorniamo sulle note di Beck, molto profano, però. Ci sta alla gran. Ma ci profondo. Piace. Vabbè, un maestro. Ma profondo. Un maestro del mashup, se vogliamo dire. Uno che. No, non proprio musica concreta, però si diverte a ci prendere da qua e là. Ma infatti, vediamo l'etimologia di mashup. Mashup deriva da, ovviamente, da le mesh bionde dei parrucchieri. O quelle che hai tu adesso. O quelle che ho io rosse. Hai. Niente, se Bobo dalla postazione MSN con la sua parrucca alla segretaria bionda ci vuole, vuole passare qualche messaggio. Qualche chicca. Sì, ma facciamo sì, parlare. Non abbiamo chicche, non abbiamo. Allora niente, ma ci salutiamo. Del al bassista. Il bassista Albano. Facciamo parlare Albano. Allora Simone, parlaci un po' degli arrangiamenti che hai dovuto fare per gli Sleeping Mood. È stata una vera tragedia, no, in realtà è uscito tutto quasi in modo automatico. Vabbè, basta, io finito. Bravo, bravo. Lo so che sono un po' prolisso, però che dovete fare? Vabbè, la persona seria del gruppo che non parla. Io suono, no? Aveva iniziato serissimo, infatti ho detto wow, abbiamo svoltato. No, mi sono valutare. Parla un po', ma te, cioè, dai, dilli che siamo bravi, che siamo... Autocelebrazione, proprio. Sì, ma come li hai conosciuti? Li hai conosciuti perché loro vogliono essere stare con me. Niente, nulla. Loro hanno iniziato a suonare con noi al progetto di cover di Radiohead. Ah, e poi vero, dimenticavo la parte, una la parte cosa più bella della nostra carriera da musicisti pseudo ingegneri e biotecnologi. Ma infatti leggevo sul MySpace che avete fatto una tournée in Turchia. Sì, abbiamo avuto la fortuna. Sì, abbiamo fatto la fortuna in Turchia. Sì, donne, vino. Vino turco che non esiste. Palazzi. Come gruppo cover dei radio. Sì. È stato molto bello perché abbiamo assaporato quello che ci piacerebbe fare davvero nella vita. Cioè stressarci con 8 ore di macchina, 2 ore di musica e poi continuo ma magari stress. Magari cioè, veramente anzi bello. No, 2 ore di live, 3 ore di live, 3 ore e mezzo di live con la gente. Una scaletta di 33 pezzi mai fatta in vita mia, sinceramente. Una scaletta che prevedeva e manco radio, tutto radio, la Idiotech a Buonanotte Fiorellino, cioè. Che forse non tutti sanno che sarà coverizzato in radio. Andremo a sentirla dopo. Nell'album doppio bianco. Ah, possiamo anche citare una grande cover di Vasco Rossi, sulla quale ma evitiamo anche di citare. Ma... io mi ci svegliamo un po' pietoso. Allora, tutto sulla un verso che fa na na na. No, parliamo seriamente di questa cosa. Vasco Rossi che prende i pezzi e li coverizza. Cioè, parliamo dei radio. Sì. Hanno dato l'assenso i radio, eh? No, aspetta. Aspetta. Grazie, ci stanno sotto di mezzo. Aspetta. Una lancia. I Radiohead hanno fornito l'assenzio per fare una cosa del genere. Una lancia a favore dei Radiohead. I Radiohead sono senza contratto e tutto ciò che hanno fatto fino all'anno a due anni fa sono dell'Emmy, quindi non hanno più niente a. Come il best of che hanno tirato fuori. Il nuovo album mandato online. Cioè, fino al. È scaduto il contratto. Sì, quindi loro non possono dire più un cazzo perché è tutto dell'Emmy. Ci hanno fatto uscire il Greatest Hits per dirti dei Radiohead. Senza il loro. Figurati se hanno dato l'assenso. Sì, però per i diritti. C'è nel. Tom York. Ma che cazzo ne sa Tom York che Vasco Rossi è un briacone? Come non lo sa? Sono andati a scegliere. Sì, ma che ne sa che è un pederasta? Cioè. Vabbè, il primo Vasco che io appoggio con tutto il cuore. Anch'io. Comunque, sì, ma a 30 anni. Stavo parlando di una persona che a suo tempo magari da rispetto per io lo paragono ai primi album di De Gregori, ma sarò blasfemo. No, però. No. Continuiamo in cagnara. No. Una figura. Una figura che. Ecco gli effetti speciali, i forniti. No, io abborro Vasco Rossi in tutte le sue forme. Sto a pestare. Ma io a questo punto spezzerei e andrei a mettere un pezzo buonanotte, del buonanotte Fiorellino. Mettiamo un pezzo di Thom Yorke da sua vai vai vai, no, vai vai, ce lo sento molto volentieri. Se lo trovo. Ah, ok, si chiama Atoms for Peace, lui è Thom Yorke. Grande, grande pezzo. E non lo presentiamo nemmeno. Non lo presentiamo nemmeno. Thom Yorke, il cantante dei Nomadi. Dei Nomadi. In Tom questa York. Featuring Tom no Guccini. Thank you. E ritorniamo, questo era ovviamente il solista di Thom Yorke che sta uscendo con un altro The lavoro Eraser. L'album era The Eraser e uscirà a breve con il nuovo lavoro, però siccome il tempo stringe e non possiamo sforare questa sera, io direi di piazzare subito l'ultimo pezzo che rimane dell'EP degli In a Sleeping Mood. Lo lanciamo vabbè, tutto improvvisato, diciamo, no, che è improvvisazione pura, però dobbiamo dare delle linee di, come si dice, delle linee guida, cioè come aiutare l'ascoltatore in questo pezzo, in questo viaggio, aiutare. Essere pazienti, questa è la pazienza, di la virtù, come diceva qualcuno, la virtù dei folli. Quindi sì. Beccatevi questi 10 minuti di viaggio, chiudete gli occhi e basta. E fate quello che volete. Come è stato fatto questo pezzo? Con una chitarra preparata, grazie al nostro amico Glenn Branca. Due uova, un pizzico di sale e un synth. Una sinusoide FM. E chitarra preparata. Bella chitarra suonata, a noi ci piace. E pazienza. E quindi beccatevelo. Pazienza. Qual è l'ultima? E ritorniamo nel panico, non vi stiamo qui a dire cosa è successo. C'è di mezzo un'eiaculazione. Un'eiaculazione di una Peroni. È un amaro del capo. Esatto. No, qua stavamo parlando di Philip K. Dick e cose varie, però un minimo di commento a questo pezzo, un minimo. Dai, dai, è più minimalista dei tutti, un po' più... il più influenzato dalla Monty Young, possiamo dire. Io direi lungo, cioè lungo e lungo. Effettivamente è lungo. No, a me, come dicevo prima, mi piace. L'abbiamo fatto perché a me piace. Sì, abbiamo espresso proprio tutto quello che è improvvisato, ma il concetto di base è quello della massa sonora, è quello degli armonici sempre, che noi siamo fissati, quindi... ci piace il suono, ci piace la sonorità. Questa distinzione, a noi non piace la distinzione tra suono e rumore. Bravo, ecco, questo è il... superata gli anni 20. Però gli anni 20, ma non Brian Eno su MSN sta applaudendo. Non, no, perché sì, superata gli anni 20, ma da chi? Non dalla da gente. Pochi, no, da pochi. Sì. Da pochi che se lo tengono per sé. A noi il rumore piace. Allora, quando ho fatto sentire le pia ai miei genitori, hanno reagito in un modo giusto per delle persone normali. Cioè, che vuoi noi dire? Che siamo comunque una generazione malata. Ma no, malata. Molto diversa. Molto diversa, forse un po' più cosciente di quello che ci gira intorno. E forse essendo noi musicologi, tra virgolette, sì, forse lo sentiamo di più. Sì. Però un attimo, continua tu a parlare. Però che? Invece il mio commento da non musicologo è stato: e questo dal vivo come cazzo la suoniamo? Un problema pratico. E infatti dal vivo non si farà. Ma sicuro che Donaldo vorrà farlo. Eh sì, per forza. Vabbè. Ho detto Donaldo, scusate. Sono io. Oppure sarà totalmente un'evoluzione diversa, magari. Si trasformerà in qualcos'altro. Sì, comunque se è improvvisazione la improvviseremo anche dal vivo. Questa è stata suonata. È il pezzo jolly, diciamo. È il jolly, sì. Un bel giretto di basso funky sotto. Sì, sì, e puoi renderla come vuoi. Tanto è un mi aperto, cioè la chitarra è accordata. Data, tutta in mi, ogni corda è un mi a ottave diverse. Diciamo che con una risonanza bestiale. Diciamo che non abbiamo scoperto nulla, non abbiamo fatto nulla di nuovo. No. Però abbiamo fatto. L'abbiamo inserito in un contesto diverso. Diciamo, sì. Un po' più popular. Si spera. Comunque volevamo, anzi i ragazzi volevano mettere ora un progetto che è loro progetto parallelo. Volevamo pubblicizzare il nostro... Per ritornare a Vasco Rossi, piccolo spazio pubblicità. Piccolo spazio pubblicità. Siamo, vabbè, io e Mauro con Simone e più un altro Donato. Il chitarrista, sì. Io, Donato, sono batterista, Mauro cantante chitarrista e Simone bassista, Donato secondo chitarrista. Bassista bongoista, però nelle parti vuote minimali. E siamo gli Everyman e mandiamo, diciamo, un diciamo pezzo che dalle fila con sì, sta uscendo EP, It Means to Be Dead. It Means to Be Dead. E questa è la, diciamo, la chiusura di questo nuovo EP, ancora non mixato benissimo, ma ci siamo quasi. Una chicca. Non ci riusciremo mai. Ce la faremo. Allora, questa è Remote Kingdom. Sì, Remote Kingdom. Ma sicuro il re. No, finiamo dall'inizio alla fine all'inizio. Remote Kingdom degli Everyman. Thank you. Questi erano gli Everyman con Donato alla batteria, Mauro alla chitarra. Io sempre basso e bondi. Donato... Ma a me piace la Formula 1. Donato Chieppa vorrebbe suonare la Formula 1. Donato Chieppa alla chitarra. Donato Chieppa, di cui non parliamo perché non ci ha fatto pubblicità. Ecco. No, infatti. Ah, se voleva curatore dire... di Alter Magazine. Che però non citiamo perché non ci ha fatto pubblicità. Non citiamo www.altermagazine.com. Non so che. Cercate su Google. Alter Magazine. Alter Magazine. Alter Magazine. Scritto con due W. Ma perché si sbaglia la gente? Mentre volevate citare un'altra persona. Ah, volevamo citare il nostro amico Paolo Tornitore, il suo gruppo Lloyd Turner, una musica molto simile a quella del nostro ultimo EP, fatta soltanto con chitarra e pianoforte, molto interessante. www.myspace.com/Lloyd con due L Y e Turner come tornitore ma in inglese. Sì. Avevamo in mente di mandare una colonna sonora. Sì, sì, noi, allora fatto... noi sì. Vai, vai Mauro. No, noi come Sleeping Mood diciamo abbiamo anche una, un progetto diciamo quasi parallelo, quasi cinematic mood, in cui facciamo, diciamo, colonne collaboriamo con registi emergenti e non. Sì, abbiamo fatto delle colonne sonore per Nicola Di Vico, un regista sempre casertano, campano. Per Verrà Domani, oltre a una colonna sonora per Piccioni. È un lungometraggio, un, diciamo. Quasi un film. Dai, un film di un regista casertano che si chiama, se non mi sbaglio, Piero Grant. E poi quest'ultimo che vi faremo ascoltare uscirà a breve. Finanziato tra virgolette da Provincinema e quindi qui a Roma, che si chiamerà Incroci, appunto il cortometraggio, e il brano si chiama Rebirth ed è stato scritto sempre da me e Mauro con una strumentazione sempre abbastanza tradizionale, quasi una canzone, anche perché è proprio un cortometraggio di Sergio Suozzi, il regista, e è stato anche il fotografo della nostra copertina del nuovo EP. Sì. E godiamoci. È il sito di Sergio. Ah, il sito di Sergio, www.sergiosuozzi.it. Allora andiamo a sentirci Rebirth degli In a Sleeping Mood. Thank you. Questa era Rebirth, tratta dalla colonna sonora del cortometraggio. Incroci di Sergio Sozzi, ricordiamolo. E niente, mentre qui continua Beck in sottofondo, eravamo indecisi se mettere o un altro pezzo degli In a Sleeping Mood oppure saltare un po' fuori, andare da Fortet, questo pazzo furioso che amiamo un po' tutti. Non lo so, dai, possiamo mettere Fortet. Io metto Fortet. E allora andiamo, vabbè, artista inglese, sempre di quella schiera degli artisti da cameretta, tra virgolette, quelli che autoproducono tutto in 4 metri quadrati. E questa è And They All Look Broken Up. Thank you. ritorniamo senza musica, perché niente, vabbè, è andata così. Vabbè, che alla, alla console non c'è nessuno. E no, stavamo disquisendo su Fortette e stavamo pensando di chiudere con un pezzo, ovviamente, degli In a Sleeping Mood. Però non c'entra, no, in realtà è degli Every Man. È il gruppo che avete sentito prima, quello più rock, più cacciarone, più immediato, dai, un po' più semplice. Questa canzone ha un cantato, ha una strofa forse, un ritornello, ritorniamo alla forma canzone. Tanta distorsione infernale, come Richard Benson insegna. grande. Con un bel dive bomb infernale, il carillone infernale. Allora, capretto sacrificale lanciato sul palco. Un pezzo di Night, cosa la facciamo? A voglia. Allora andiamo a sentirci Graves e poi chiudere con gli Asleep in Mood. Dada, sono portato. Somehow I feel my time is not. ed erano gli Everyman, progetto parallelo degli Sleeping Mood, sì, sì, che hanno suonato a Rio Nero in Vulture. Sì, sì, di possiamo dirlo, siamo pieni. Anche a Guardia Grele, no, a Casoli. A Casoli, vicino Guardia Grele, che è il mio paese nativo. Perché sono a Roma ormai inflazionato, quindi a noi non piace suonare a Roma, è troppo radical chic. Andiamo alle radici. Allora, siccome siamo lì lì per dare la linea a Ciccio Svelo con Out of the Shell e il suo delirio indipendente di intervento sociale, insomma un delirio, vi lasciamo con la prima traccia dell'EP, sì, che può essere considerata quasi un singolo, estratto singolo antelittera, antelittera, sì, del primo EP. Antenumeram, che non vuol dire nulla. E che è Nightfall. Ok, allora io vi... Il più poppettone. Mandiamo il poppettone in chiusura. E questa la dedico a Gennaro da... Da Pozzuoli. Da Pozzuoli. Dalla Solfatara. Sopra la Solfatara, levati da lì, Gennaro. Beh, io vi saluto, vi saluto anche gli In A Sleeping Mood. Ciao ragazzi! Ciao ragazzi. Niente, ci rivediamo lunedì prossimo. Buonanotte a tutti. Ciao!